finisco nei tuoi occhi miele, quel miele che ha incollato le parole. Non è questione di quel che conviene, ma è che ci viene stare bene insieme. Che cosa ci dovremmo fare allora, se non difenderci a vicenda ancora? Comunque vada, sono lì da te tra un'ora, e come sempre con il cuore in gola. È una rivelazione, un colpo di fortuna, sbarco in Normandia, passo sulla luna. Morte di un impero, nasce un'anarchia, un po' tua, un po' mia. E siamo liberi, sospesi in questo attimo, come un puntino in un sistema intergalattico. Che di preciso dove vivrà non lo so, ma di sicuro ce ne c'è, ci sarà. Restiamo liberi, sospesi in questo attimo, fuori dal tempo e senza alcun progetto tattico. Di cosa è fatto di preciso non si sa, ma di sicuro ce ne c'è, quest'amore ce ne c'è, di sicuro ce ne c'è, ci sarà. Col suo rattomante ci troveremo ovunque in ogni istante, come valanghe giù dalle montagne, come addizioni sopra le lavagne, due api in volo sullo stesso fiore, la belva docile col domatore, acrobati coi piedi belli fermi a terra, due veterani ancora in guerra. È una benedizione, un dono di natura, strada già battuta nella selva oscura, a memoria atavica in una vita tua, vita mia. E siamo liberi, sospesi in questo attimo, come un puntino in un sistema intergalattico. Che di preciso dove vivrà non lo so, ma di sicuro ce ne c'è, ci sarà. E stiamo liberi, sospesi in questo attimo, fuori dal tempo e senza alcun progetto tattico. Di cosa ho fatto di preciso non si sa, ma di sicuro ce ne c'è, questo amore ce ne c'è, di sicuro ce ne c'è, ci sarà. Nasce un'anarchia, vita tua, vita mia.